24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 22 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo venerdì 27 marzo. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno a chi ci ascolta. A partire dalle 8.30 ci occuperemo del tema di questa app per tracciare i contagiati o per tracciare le persone in quarantena. Il tema è un po' quanto siamo disposti a sacrificare di alcuni dei nostri diritti, a partire da quello alla privacy in una situazione di emergenza come questa. Le vostre opinioni sono benvenute anche su questo al 349 238 6666 per gli sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, e all'800 24 0024. Ma cara Maria, tema importante quello che tratteremo, Simone. Sì, ma la giornata ci porta sulle questioni economiche, no? Naturalmente. Sì, perché dipende tutto da lì. Io questa mattina sono rimasta molto colpita, ve lo dico, molto preoccupata anche dalla frase con la quale due professori, Adam Tooze, professore di storia alla Columbia University, e Moritz Schulerich, professore di economia all'Università di Bonn, dichiarano che senza la solidarietà dei paesi dell'Unione, l'Italia non sarà capace di rispondere alla crisi nello stesso modo in cui cercheranno di farlo altri paesi. Notiamo, insomma, che quello che è successo ieri in 6 ore di riunione tra i capi di Stato e di Governo, che poi sono diventate 10, è una bomba messa sotto il sedere dell'Unione Europea. Se il fronte dei 9, che vede insieme all'Italia la Spagna, la Francia, il Portogallo, il Lussemburgo, il Belgio, la Slovenia, la Grecia e l'Irlanda, riuscirà a mantenersi compatto, e finora, fino a ieri sera lo è stato, fino a ieri notte lo è stato, Olanda, Austria, Finlandia e in parte la Germania si assumeranno una responsabilità enorme nel continuare a dire no, i soldi li diamo solo attraverso il meccanismo europeo di stabilità, perché il meccanismo europeo di stabilità è qualcosa che è stato pensato per una situazione economica che non c'entra niente con la crisi di pandemia. La crisi di pandemia non è colpa di nessuno, dunque voler penalizzare alcuni paesi del sud Europa ponendo delle condizioni rispetto a una cosa di cui ovviamente possono rispondere. Certo, l'Italia ha un debito pubblico spaventoso, d'accordo, ma la pandemia non ce la siamo andata a cercare. È molto rischioso. Ricordiamo che aver umiliato paesi europei dopo la prima guerra mondiale portò a catastrofi. Alla seconda guerra mondiale, per essere precisi. Catastrofi, sì. Quindi c'è da dire dall'altra parte. Attenzione a quello che decideranno, sì, i cinque, no? Il, sì, presidente belga Charles Michel, la von der Leyen, la Lagarde, Sassoli. Ecco, hanno 14 giorni per portare una soluzione. Io penso che alla fine riproporranno il ricorso al meccanismo europeo di stabilità, magari con delle condizioni più leggere, ma non è la, sì, risposta. E giustamente, secondo me, i governi italiani dicono di no. Se mi permetti, sai Maria, dipende da qual è questa condizionalità. Cioè è chiaro che questa condizionalità a questo punto non possono essere non possono essere le riforme strutturali, perché in una fase di questo genere non possono essere le riforme strutturali. Può darsi che la condizionalità sia l'utilizzo di questi fondi per sostenere l'economia in una crisi da Covid-19, e allora in quel caso il meccanismo europeo di stabilità va benissimo, insomma, perché non mi pare che sia un problema. Se vengono poste delle condizioni, se sono condizioni stile greco, è chiaro che no. Se sono condizioni diciamo di utilizzo destinate ad uno scopo, insomma, su quello si può sicuramente ragionare. Io immagino, direi, che nessuno presti denaro all'Italia o alla Spagna per dire poi fate un po' quello che volete, distribuitelo agli amici. Ovviamente, certo, dovrà essere investito riforme sanitarie, istruzione, per industria. Però, insomma, il meccanismo europeo di stabilità difficilmente, se passa, non avrà condizioni per cui da lì a 3 anni o 4 anni ci ritroveremo in gravi vedremo, difficoltà. Vedremo. Intanto veniamo alle questioni mediche ed epidemiologiche con Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Rezza, buongiorno. Buongiorno, anche se una tirata di orecchie agli amici europei, anche dal punto di vista epidemiologico, la farei. Anche dal punto di vista epidemiologico. Senta. Anche Rezza, perché gliela farebbe? Perché non c'è stata una risposta sanitaria sin dall'inizio di questa crisi. Il supporto è arrivato dopo che è arrivato quello dei medici russi, cubani, cinesi, finalmente alcuni ospedali tedeschi hanno preso dei pazienti italiani. Però ricordiamoci che non c'è stata una risposta sanitaria sin dall'inizio. Sinceramente questo ci ha amareggiato non poco. Lo immaginiamo, Rezza. Senta, io ho qualche problema in questo momento a comprendere esattamente i numeri italiani. Anche persone che se ne occupano più strettamente, no? Hanno qualche perplessità, statistici, fisici che lavorano sui numeri, epidemiologi. Ieri abbiamo assistito a questo incremento di 2500 contagi e però senza una vera chiarezza su come stiamo lavorando, abbiamo lavorato sui tamponi, su a chi vengono fatti i tamponi, chi viene conteggiato dentro questi tamponi. Ci aiuta un attimo? Guardi, fuori dalle righe. Fare un bollettino quotidiano è difficile. Un bollettino quotidiano di questo tipo si fa tramite le regioni che danno dei dati aggregati al Ministero, quindi passa quindi alla Protezione Civile e si rende pubblico. C'è un meccanismo, diciamo, che è stato avuto dall'inizio, credo, per fare di trasparenza e dare dei dati tempestivi. Però il problema vero è che questi sono dati di notifica. E le notifiche sono condizionate non solo dal fatto che queste infezioni, questi contagi sono avvenuti 5-10 giorni fa, perché l'insorgenza dei sintomi c'è stata molto prima della notifica, dopodiché è stata fatta la diagnosi dopo 5 giorni, diciamo, e dopo alcuni giorni viene fatta una notifica. Quindi sono molto dipendenti dai tamponi che si fanno, dai test che si fanno, da quanto quel giorno i dati vengono riportati, e quindi abbiamo questa altalena per cui 1 o 2 giorni le cose vanno meglio e si comincia tutti cominciano ad essere ottimisti, dopodiché sa c'è la mazzata come ieri, perché magari sono stati fatti più test, sono stati riportati. Sarebbe meglio farlo settimanale Rezza, questo bollettino. Noi facciamo un bollettino bisettimanale, per esempio, come Istituto Superiore di Sanità, che è un però quella è una sorveglianza epidemiologica su dati individuali, quindi raccogliamo i dati possibilmente anche per dare all'insorgenza sintomi. È chiaro che i dati vanno visti per dare all'insorgenza sintomi, perché? Perché quello ci approssima di più i contagi. L'unico problema che ha questo sistema è che, da immagini, una regione come la Lombardia, ma anche altre regioni in Emilia, che devono mettere dati individuali, chiaramente inserire, e in questi dati trasmetterceli chiaramente ogni giorno si fa fatica a dare un'immagine molto aggiornata. Chiaramente questi dati anche risentono di qualche giorno di ritardo, però quello che io ho sempre detto è che i dati bisogna leggerli su più giorni. I modelli matematici bisogna farli sulla data di insorgenza dei sintomi o su indicatori forti come per esempio l'ospedalizzazione. Scusa Simone, avevo una domanda. Sì, ma prima della domanda c'è una questione tecnica, se posso. Rezza, se può avvicinare, no, se può avvicinare la bocca alla cornetta o trovare il modo, perché si sente poco oggettivamente, ce lo dicono anche gli ascoltatori, insomma non so come sia come sia la condizione. Maria, prego. Io non ho capito, tornando appunto alle varie scelte che sono state fatte in Europa, se conviene fare tanti tamponi. Per esempio in Veneto Zaia ha deciso di farli e i risultati mi pare ci siano, oppure no, perché per esempio in Germania la situazione dell'epidemia sembra sotto controllo e lì i tamponi li hanno fatti già settimane Mirati. Fa, ma soltanto Mirati. Qual è, se, a questo punto, dopo un mese di lavoro sul campo, un'idea se la sarà fatto? Qual è la strada giusta, secondo lei? Senza stare a dire si poteva fare, non si poteva fare. Ormai, certo. Come dice Conte, del senno del poi sono piene le fosse. Ok, allora, adesso qual è la strada giusta? Adesso? Allora, dipende molto dalla fattibilità. Perché chiaramente i tamponi vanno fatti il prima possibile a persone sintomatiche, cioè persone che hanno sintomi, perché bisogna anche fare la diagnosi, individuare i focolai evidentemente e se c'è bisogno curarle. Chiaramente se c'è disponibilità, i tamponi possono essere fatti anche a persone che hanno pochissimi sintomi o a persone che sono contatti di pazienti. Allora, ecco, qua subentra un problema di fattibilità. In una regione come la Lombardia, dove l'incidenza è molto alta, qualsiasi febbre probabilmente attribuibile al Covid, al SARS-CoV-2. Perché? Perché è alta la probabilità che quella febbre sia dovuta a questo virus. In un'area a bassa incidenza, prendiamo, che so, la Sicilia piuttosto che la Calabria, è bene vedere subito se quella persona che ha sintomi davvero ha un'infezione dovuta al nuovo coronavirus o no, e allora conviene fare subito un tampone. Sul tampone ai contatti invece è un problema di fattibilità, perché è chiaro, se per esempio i reagenti non sono infiniti, anzi c'è una competizione internazionale adesso anche su accaparrarsi i reagenti, allora se non si possono fare tantissimi tamponi, una regione operata come la Lombardia non potrà mai fare i tamponi ai contatti dei casi. Una regione che invece ha meno impegno può farlo, per esempio in Veneto l'hanno fatto, hanno tenuto la situazione sotto controllo a livello territoriale, ma non si ritrovavano in mano quella bomba biologica che è esplosa a Lodi e dopo a Bergamo, capito? Sì. Quindi dipende molto dalla situazione epidemiologica. Dopodiché capito. Noi abbiamo scelto molto di fare distanziamento sociale in Italia. Distanziamento sociale vuol dire che si cerca di non far camminare velocemente l'infezione nei luoghi pubblici, in comunità, anche negli uffici, perché gran parte degli uffici si sono svuotati. È chiaro che però continua un po' di trasmissione intrafamiliare intanto, oltre ai casi che si sono manifestati, che sono stati contagiati prima di questi interventi, e quindi per vedere se questi interventi andranno bene e saranno un impatto positivo, bisognerà aspettare almeno fine mese, l'ho sempre detto, non possiamo aspettarci di vedere una diminuzione subito. Certo. Riguardo alla Germania, fanno molto rintraccio dei contatti, fanno tamponi mirati, ma soprattutto hanno una rete ospedaliera da paura, molto forte, e sono molto organizzati dal punto di vista ospedaliero, hanno molti posti letto e anche molti posti in terapia intensiva, però hanno avuto un paio di vantaggi. Uno, l'infezione è arrivata dopo questa epidemia, perché avevano avuto prima solo una piccola catena di trasmissione che era stata ben identificata, dopodiché ha colpito soprattutto giovani fino ad ora. Quindi questo spiega anche il basso tasso di ospedalizzazione. Certo. Quindi speriamo che continui così anche per loro, però vediamo. Vedere come andrà. Come andrà. Senta Rezza, a proposito di rete ospedaliera, di dotazioni e via dicendo, allora in questi giorni stanno finalmente partendo un po' di ricostruzioni su quello che è successo a partire quantomeno dal 31 gennaio, ossia dal giorno della proclamazione dello stato di emergenza, dove abbiamo assistito al blocco dei voli dalla Cina. Immagino anche da voi, dall'Istituto Superiore di Sanità, qualche segnalazione che diceva occhio, che qua non abbiamo le condizioni dal punto di vista delle terapie intensive, delle dotazioni di mascherine, camici e via dicendo, di affrontare un'eventuale epidemia nel nostro paese. Secondo lei si è fatto poco nel mese, diciamo nei 20 giorni della proclamazione dello stato di emergenza, al momento nel quale abbiamo scoperto il paziente 1? Guardi, il paziente 1 è stato scoperto il 21 febbraio e credo che il ministro della salute avesse già riunito una commissione di tecnici intorno al 20-21 di gennaio, quindi molto prima, la paura era allora, perché c'era molta preoccupazione riguardo a quello che stava succedendo a Wuhan, quindi la paura maggiore era quella di cercare di non introdurre l'infezione in Italia, di non far arrivare il virus. Si era molto concentrati su quello, proprio perché si temeva moltissimo questo evento. Ci fu prima il blocco dei voli da Wuhan, deciso dal governo cinese stesso, si ricorderà, allora sì, certo. non arrivava a dichiarare lo stato di pandemia. Dopodiché l'Italia fu l'unico paese a bloccare i voli diretti. Questo provvedimento da alcuni è stato criticato, però credo che fosse stato ispirato al principio di massima precauzione. Non tutti i paesi europei lo fecero, anzi lo fecero le singole compagnie. Noi però non avevamo l'Alitalia che volava su quei posti. Chiaramente, quando si arrivò a diagnosticare il caso indice, quello era lo scenario peggiore, cioè un italiano sostanzialmente che apparentemente non aveva avuto rapporti. Mi scusi Reza, però la domanda è, la riflessione sul se arriva siamo pronti, c'è stata oppure no? C'è stata sì, perché le stime che erano state fatte, delle stime, chiaramente queste stime dopo venivano segretate perché erano stime che dovevano essere basate su modelli come quello per esempio del Lubei, perché non c'erano casi in Italia per fortuna, quindi all'epoca, per cui le stime e le predizioni che si facevano erano basate sugli andamenti dell'epidemia al di fuori di Wuhan, nella provincia del Lubei, quindi erano stati fatti dei modelli matematici di predizione, e quindi le stime c'erano, erano fatte proprio per incrementare i posti di terapia intensiva, per pianificare gli interventi. Dopodiché, come lei sa, l'Istituto, noi siamo epidemiologi, noi facciamo stime e predizioni. Sì. Poi tocca alla politica, a decidere, mettiamola così. Senta, ecco, Renzi, rimaniamo sul diplomatico. Diciamo un'ultima cosa, quantomeno. Ecco, certo. Volevo chiederle un'ultima cosa di interesse comune. Ieri la ministra dell'istruzione Azzolina ha detto che i ragazzi torneranno a scuola se ci saranno le condizioni. In questo momento le scuole in tutta Europa, salvo appunto la Svezia che si citava prima, in tutta Europa sono chiuse. Secondo lei ci sarà una decisione paese per paese a seconda dell'evoluzione del virus, oppure dobbiamo dirci con molta serenità che l'anno scolastico è andato e non si riapre fino a settembre prossimo? Allora, la decisione c'è stata paese per paese, allora io mi ricavo prima, è stata dettata comunque dal modello italiano, dopo se andiamo a vedere, perché all'inizio... Dal modello italiano che ha fatto, come dire, da cavia, diciamo, purtroppo. Certamente, ma prima nessuno veniva dietro, avrebbero avuto una finestra d'opportunità per intervenire prima alcuni paesi, purtroppo. Qual è stato il punto? Che adesso, che noi dobbiamo leggere i dati e saper interpretare su, come dicevo prima, su un periodo più lungo, e comunque sia prima della fine del mese noi difficilmente vedremo un vero impatto delle misure di prevenzione, dopodiché ci auguriamo davvero che i sacrifici degli italiani vengano ripagati. Naturalmente non è che da un giorno all'altro questa epidemia finisce, questo è il problema maggiore, cioè non è che i dati vanno meglio, la tana libera tutti. Può essere una soluzione, Renza, può essere una soluzione far tornare progressivamente fasce di età al lavoro e alla vita, diciamo, quasi normale, cioè prima i ventenni, per questo parlavo di scuola o di università, poi i quarantenni, e tenere al riparo gli anziani, al riparo per un lungo periodo gli anziani? È un'ipotesi che corre, molti studiosi l'hanno proposta. Sì, ma anche in altri paesi come l'Inghilterra, forse anche la Germania, stavano pensando a dei piani per tenere soprattutto protette le persone. Israele naturalmente, sì, certo. Hanno una grande organizzazione, e cercare di tenere protetti gli anziani. Bisogna vedere anche come farlo, perché non è semplice far correre il virus e tenere protette solo gli anziani, quindi chiaramente ci sarà bisogno di una di molta gradualità e di piani complementari. Sì, di una grande riflessione. Anche grazie a Giovanni Rezza per essere stato con noi dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Chiedo scusa agli ascoltatori per l'audio che purtroppo non era eccellente. Alcuni hanno sentito male, altri hanno sentito meglio, a seconda che avessero il DAB o fossero in FM, in macchina oppure a casa. Una pausa e poi parliamo delle app per tracciare i contagi. Mattino. La privacy in questo momento debba essere sospesa. Sì, sì. E so che molti si arrabbiano quando dico queste cose. Abbiamo gli israeliani che si sono messi a disposizione per dei dispositivi che ci permetterebbero ad esempio di tracciare tutto quello che sono i movimenti, e per noi sarebbe fondamentale utilizzare l'intelligenza artificiale, ma non per farci i fatti degli altri, ma per capire i movimenti e intercettare i positivi asintomatici e quindi creare la vera sorveglianza che deve essere fatta in questo caso da un punto di vista sanitario. Luca Zaia è presidente della Regione Veneto, che la butta giù pesante nel dibattito. Secondo me le regole sulla privacy vanno sospese. Si chiude oggi la call to action a imprese, privati e chiunque voglia presentare le sue proposte per un'app che aiuti a gestire questa emergenza. Il 93% degli italiani, secondo un'indagine BVA Doxa, il 93% degli italiani è pronto a sacrificare alcuni diritti fondamentali se questo aiuterà a prevenire la diffusione del virus. Bisogna approfondire, perché sono temi che poi, come dire, influenzeranzeranno anche il futuro. È sempre pericoloso. Quando tu concedi una mano, in genere lo Stato, se non ti prende il braccio, la mano se la tiene comunque, e quindi bisogna starci attenti. E poi qui ci sono anche elementi sovranazionali, perché appunto Zaia parlava prima della disponibilità di un paese come Israele, che non è l'Italia. Attenzione, perché noi diamo dati, è vero che diamo dati anche a Uber o a chiunque quando vogliamo comprare cose o stare comunque in connessione con i giganti over the top. È vero, li diamo liberamente, però qui daremmo dati che non sono più che sensibili. Però sottoscriviamo un contratto, però insomma, abbiamo persone con le quali parlarne, a partire da Antonello Soro, che è il presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali. Buongiorno Soro. Buongiorno a voi. E Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone, consigliere di amministrazione del gruppo americano delle telecomunicazioni Verizon. Buongiorno Colao, eccoci. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora Colao, c'è un tema che è mondiale e un tema che è italiano. Il Ministero dell'Innovazione, lo ricordavamo, ha visto arrivare 319 proposte per quanto riguarda gli strumenti di data analytics e poi anche ci sono quelle che riguardano la telemedicina. Lei in un lungo articolo sul Corriere della Sera ha proposto una serie di linee guida. Che cosa potrebbe contemporaneamente salvare capre e cavoli, cioè aiutare il contenimento dell'emergenza facendo riconoscere per esempio i contagiati a quelli che ancora non lo sono e in futuro salvaguardare la privacy? Ma guardi, innanzitutto non credo che bisogna pensare a dispositivi israeliani o a cose complicate. Io ieri ho avuto modo di vedere quello a cui sta lavorando il governo inglese, che è un tentativo appunto di salvare la privacy, quindi garantire l'identità, che l'identità della persona non sia rilevata, a lavorare con dei barcodes che si mettono sui test in maniera tale che nessuno tranne l'ente statale deputato alla sanità può sapere lungo tutto il percorso logistico di chi è il dato, ma al contempo tracciare i contatti sociali per il tempo dell'emergenza, perché poi questa app, che è lo strumento per cui con cui si prendono i dati, garantire che per il tempo dell'emergenza si possa aiutare la persona e le persone che sono venute in contatto con la persona a curarsi nella maniera giusta. Finita l'emergenza si toglie tutto e comunque c'è sempre solo lo Stato che vede chi è l'ultimo in fondo alla fila, quindi si può e non si deve ricorrere a cose israeliane strane. Soro, qual è il perimetro all'interno del quale bisogna muoversi, posto che la stessa direttiva europea sulla privacy prevede alcune sospensioni in caso di emergenze, presumibilmente emergenze anche di questo tipo? Direi che il perimetro è la nostra Costituzione, sono l'ordinamento europeo che contemplano limitazione alle nostre libertà in funzione di esigenze di interesse collettivo altrettanto più importanti, quindi è del tutto evidente che di fronte a un'emergenza come quella attuale tutti i diritti di libertà, compreso quello alla quale ci stiamo adattando di non uscire di casa, hanno una ragione nella visione generale che il nostro sistema democratico prevede, che ha consentito anche in passato di superare altre difficoltà. Naturalmente capisco che è molto difficile, ma dobbiamo avere presente che in questa fase, a mio parere, occorre evitare le improvvisazioni, le iniziative scoordinate o i riferimenti a modelli esterni presi, diciamo, all'ingrosso. Dobbiamo valutare i progetti nella loro concretezza, sapendo che occorre connettere in un rapporto di utilità e di reciprocità le varie fasi, le varie azioni. Certo, il distanziamento sociale è indispensabile ricostruire la catena epidemiologica, per questo occorre anche probabilmente saper tracciare i contatti che ogni persona contagiata ha avuto, ma occorre a quel punto essere in grado di fare test diagnostici, occorre proteggere il personale sanitario. Nessuna di queste azioni da sola è sufficiente, ma nessuna di queste può essere fatta se non in questa visione generale. Io credo che il governo, ho letto stamattina un'intervista del ministro dell'innovazione, mi pare ragionevole pensare, come dire, di mettere la tecnologia al servizio di questi obiettivi e non confidare nella tecnologia come un feticcio che risolve tutti i problemi. Ecco Soro, lei giustamente ha detto non bisogna correre, si tratta di temi delicati e di decisioni delicate, però io ho una domanda per tutti e due, per Colao e per lei Soro. Si possono, diciamo, comprendere un po' i tempi per questo sviluppo? Quanto tempo ci vorrà, Colao, per realizzare, per rendere operativa la tecnologia di cui lei parlava e di cui per esempio ha avuto contezza parlando con esponenti del governo britannico? E per Soro, quanto tempo ci vorrà perché a livello normativo sia tutto a posto? Perché anche i tempi hanno una loro importanza. Se tutto sarà pronto a ottobre, per carità, evitiamo magari una recrudescenza del virus, però potrebbe anche essere tardi. Iniziamo da Colao. Il punto è esattamente quello. Io sono un po' preoccupato dagli approcci molto lenti che a volte abbiamo in Italia. Come giustamente diceva il presidente Soro, ci sono tanti elementi. La cosa che, diciamo, mi ha impressionato dell'approccio inglese è che qui si parla tanto dell'app, ma questi non stanno solo lavorando all'app, questi stanno lavorando ovviamente con l'equipe medica per capire quale tipo di test si può far fare a casa. Stanno lavorando con una primaria società di consulenza per disegnare tutti i processi, perché poi bisogna appunto garantire la privacy, ma non solo la privacy, la integrità dei campioni, tutto il lavoro di tracciamento. Stanno lavorando con, credo si possa dire il nome perché tanto è l'unica, con una grande ditta di e-commerce che è ovviamente Amazon, per tutta la parte di logistica, e poi stanno creando il centro sotto controllo della sanità di controllo di tutta questa cosa. Allora, tutto questo va fatto in parallelo, perché se aspettiamo prima avere, poi di sviluppare la logistica, poi di sviluppare, allora sì che arriviamo a ottobre. Quindi credo che favorire un approccio integrato, come giustamente diceva il Presidente, è importante, ma bisogna mettere tutti i moduli in parallelo per farli sviluppare il più in fretta possibile. Questo è quello che io raccomanderei. L'app è uno strumento, non è la fine del gioco, è l'inizio di tutto, e bisogna francamente accelerare anche gli altri pezzi. Soro, sulla parte normativa. Ma guardi, per fortuna esiste il sistema, lo strumento del decreto d'urgenza. Se fossimo nelle condizioni di avere le idee chiarissime, un semplice emendamento al decreto che è in corso di di conversione nelle camere risolverebbe il problema della tempistica. Io sono preoccupato non tanto sulla difficoltà di avere strumenti legislativi adeguati, quanto sulla chiarezza degli obiettivi e sulla valutazione puntuale dei progetti che vengono proposti, che naturalmente richiedono una valutazione complessa. Capisco che in questi momenti ci sia anche una fatica. Le dichiarazioni del Presidente della Regione Veneta esprimono un sentimento di chi è affaticato e stressato da questa condizione, ma non possiamo perdere di vista le coordinate generali nelle quali ci si muove. E per questo è indispensabile che la valutazione del progetto per la parte tecnologica venga fatto con rigore e preveda e contempli una regia unitaria. Io sono molto preoccupato per il diffondersi di iniziative locali, regionali, comunali, tutti sono alla ricerca dell'app miracolosa. Probabilmente dobbiamo avere la consapevolezza che serve una regia centralizzata, che serve una capacità di acquisire informazioni da parte di un soggetto che abbia l'autorità pubblica e anche la responsabilità per essere affidabile, per poter conseguentemente attivare le altre iniziative a cascata. Tutto questo richiede naturalmente un lavoro che deve essere veloce, ma al tempo stesso molto accurato. Il principio su cui si regge il nostro sistema democratico, il principio della proporzionalità di qualunque strumento rispetto al fine che viene dichiarato. Allora, la richiesta di la ricerca di strumenti tecnologici va benissimo, purché siano dentro questo sistema e non si perda di vista l'orizzonte generale. Sono assolutamente d'accordo con chi di voi diceva prima che il tempo e la cornice temporale non è irrilevante. Finita l'emergenza, tutte le deroghe devono finire. Sì. E questo deve essere scritto bene nel decreto legge, nella legge, in quello che sarà la norma che farà partire questo esperimento nuovo per il nostro sistema. Però, Soro, io su questo ho un dubbio, poi magari vorrei sentire anche Colao su questo tema. Ed è questo. Allora, noi siamo chiaramente in un'emergenza, molti l'hanno paragonata alla Seconda Guerra Mondiale, in una situazione ovviamente molto particolare. È vero anche dall'altra parte che nel momento nel quale introduci un cambiamento di questo genere all'interno del nostro ordinamento, ebbene, poi è difficile che lo Stato non trovi un'altra emergenza nella quale deve utilizzare questo stesso strumento. Noi veniamo dalla lezione di questi 20 anni di guerra al terrorismo, che su questo sono stati indicativi, nei quali la società occidentale è stata in grado addirittura di accettare, faccio un esempio su un altro tema, che si commettessero dei reati di tortura in una realtà extraterritoriale, penso a Guantanamo. E allora mi riesce difficile pensare che nel momento nel quale si fa questo tipo di concessione, dall'altra parte poi non ci si ritrovi con uno Stato che nel momento nel quale decide che c'è una nuova emergenza di qualche tipo riattiva questi stessi strumenti. Che dice Soro? Dico che il principio della proporzionalità è quello su cui si regge il nostro sistema. Io sono di quelli che in qualche modo frena la corsa a superare tutti i limiti. Bisognerà che questa visione correttamente ispirata al principio della proporzione venga rispettata. Ma oggi, le dichiarazioni del governo in questi giorni mi confortano, mi sembrerebbe, e spero, e siamo lì anche per verificare che venga rispettata questa intenzione. Il limite dell'emergenza servirà per farci riuscire di casa? Con la stessa logica bisognerà che immediatamente dopo riprendano tutte le garanzie che tra l'altro sono previste dal nostro ordinamento europeo, rispetto al quale le norme italiane devono essere subordinate. Quindi non esiste la possibilità teorica, esiste la pratica. La pratica sarà legata alla volontà del Parlamento, del governo, e io che ho un'idea democratica delle emergenze, perché tutte le emergenze, anche le guerre, nel nostro ordinamento sono assoggettate alla Costituzione, e questo è la nostra bussola, dovrà essere la nostra bussola. Io vorrei aggiungere un elemento di riflessione per Colao, che prima appunto citava la collaborazione con Amazon che è in corso per il governo britannico. Tutti noi sappiamo, no, quanta fame ci sia di dati. E qui parleremo di dati ultrasensibili, che sono quelli che riguardano la salute. Chi ci garantisce che poi, una volta acquisiti questi dati, qualcuno non li venda o non li utilizzi a fini commerciali? Allora, innanzitutto sulla sua domanda specifica ribadisco quello che ho detto prima. Quello che stanno studiando qua è esattamente disegnato per non permettere a nessuno, inclusi i partner, in questo caso Amazon, ma anche Facebook, anche gli altri che poi aiuteranno con la distribuzione, non permettere a loro di acquisire dati identificati. Quindi per quello vogliono usare dei barcode, perché vogliono usare cose che non siano, che non permettano l'uscita dei dati al sistema. Quindi la prima risposta, che è quella che do da tecnico, da persona che ha fatto sempre progetti e processi di innovazione, si disegna dall'inizio in maniera tale che non lo possa. Volevo però tornare sul tema che scappi di mano e di Guantanamo. Secondo me l'esempio che lei fa è esattamente quello che dà ragione a noi. Gli americani hanno avuto Guantanamo, ma noi non l'abbiamo avuto. Gli europei sono stati, anche nella fase del terrorismo, anche negli anni più difficili, sempre attenti a preservare, sia pure a volte con qualche legge speciale, a preservare i diritti individuali e i diritti democratici. Siamo la patria del GDPR, siamo la patria della privacy. Quindi in Europa sì, se per questo cultura. È vero, i nostri servizi segreti non sono autorizzati, per esempio, a commettere atti di tortura, e questo ci preserva su un altro terreno. Né peraltro il mondo digitale, il Presidente lo sa, i poteri che il governo americano ha dato alle agenzie americane nel digitale sono enormemente più grandi di quelli che invece in Europa abbiamo ritenuto giusto dare. Quindi io penso che se c'è un posto dove questa soluzione, questo equilibrio che tutti vogliamo si può trovare, è proprio l'Europa. In ultimo aggiungo, noi dovremmo uscire da questa crisi, dobbiamo uscirci con questo rischio, prima che arrivi il vaccino, delle seconde ondate, delle terze ondate. Ecco, dobbiamo stare attenti a che non succeda che paesi più autocratici, paesi anche dittatoriali francamente, non trovino una maniera migliore, magari intrusiva, ma migliore di noi di uscirci, e poi questo crei frustrazione nelle nostre popolazioni, nelle nostre democrazie, e che poi portano a tentazioni un pochino più diciamo di seguire quegli esempi. Quindi proprio per non seguire gli esempi autocratici, dittatoriali, penso che sarebbe bene trovare il giusto equilibrio europeo e portare avanti una soluzione integrata nel sistema dello Stato, ma che garantisca poi che quando ripartiamo non ci sia l'ondata 2, l'ondata 3, l'ondata 4. Dobbiamo chiudere. Grazie dunque ad Antonello Soro, garante della privacy, per essere stato con noi, presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, per stare alle parole istituzionali. Soro, grazie per essere stato con noi, buona giornata. A voi, grazie, buona giornata. E grazie anche a Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone, consigliere di amministrazione del gruppo americano delle telecomunicazioni Verizon. Buona giornata, Colao. Buona giornata, buona giornata a voi. Noi chiudiamo qua. Cara Maria, ci risentiamo lunedì alle 8:20. E vediamo che cosa ci proporranno le discussioni europee. Teniamo d'occhio, Teniamo d'occhio. Se ci vorranno 14 giorni per le soluzioni. Ammesso che arrivino. Ammesso che arrivino, naturalmente. Grazie anche a Peter Bescapè in regia, Miriam Lucchetti in assistenza, insieme a Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in assistenza in redazione, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Noi ci risentiamo lunedì alle 6:30. Una buona giornata, un buon fine settimana da Simone Spezia. Ciao. Ciao.